Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E invece no, il ragazzetto romano in divisa ATAC è proprio un controllore. Penso che sono fregato. Lui mi guarda, apre bocca ma non parla. Comincio a pensare che mi abbia scambiato per uno straniero. Poi lo sento che si rivolge a me in inglese. Hello? Penso che c'è qualcosa che non quadra. In un attimo però mi ricordo dei miei capelli rosso irlandese e del libro inglese che sto leggendo. E in un inglese stentato mi guarda di nuovo e mi chiede: ticket please. Mi chiamo Massimo, ho 28 anni, sono di Roma, sono un giornalista freelance e ho i capelli rossi. Che non è necessario avere i capelli rossi per sembrare qualcun altro, o non tanto qualcun altro, ma per sembrare qualcosa che non si è, o che non si è in quel momento, ad esempio. Basta avere un paio di occhiali, o un cappello, o un abito, che immediatamente possiamo sembrare quello che non siamo. 349-238-6666. Il racconto di Massimo, che vi farò più tardi, parla di un episodio particolare della sua vita, in cui lui viene scambiato per una persona che non è, l'episodio è anche molto divertente. Però oggi, partendo da qua, vorrei andare anche da un'altra parte, che tutte le volte in cui qualcuno vi ha scambiato per qualcun altro, non tanto vi ha scambiato, ma ha avuto la sensazione che voi non foste quello che eravate realmente. Ecco perché mi sono arrivati alcuni messaggi sul profilo Facebook del programma, come quello di Elisabetta, in cui parla del proprio viso. Dice: io ho un viso che non resta impresso nella memoria di chi mi incontra, quindi ho pensato spesso di potermi spacciare per chi non sono, ma non l'ho fatto perché sono una pessima attrice. Quando in giro incontro il mio viso riflesso in qualche vetrina, a volte mi stupisco di trovarlo diverso da come me lo ricordavo. Oppure Elisa: io mi ricordo che anni fa un amico mi raccontò che sua cugina piccola avrà avuto 10 anni, chiedendogli di me gli disse: ma chi è quella ragazza con la faccia triste? Ecco, avete presente quando fate una cosa, provate a farlo adesso, non so, dovunque voi siate, se siete a casa, se siete in ufficio. Se siete in ufficio potete usare la webcam del computer, no, se ce l'avete, o se siete una donna avrete uno specchietto. Provate a guardarvi un attimo in faccia, cioè a guardare la vostra faccia, la vostra immagine riflessa, a guardarla bene però, non semplicemente per sistemarsi qualcosa o così, en passant, no, proprio provate a guardarvela, provate a chiedervi se, magari non siete quello che sembrate, o semplicemente date una sensazione diversa da quella che siete. 349-238-6666. Prima sul profilo Facebook del programma Fabrizio ha postato una sua foto, che è una foto che ha... appena sveglio, e dice: questa è la mia faccia appena sveglio la mattina, è per forza la mia, chi altri potrebbe portare in giro un naso del genere? Ed effettivamente, se andate a vedere la foto, Fabrizio ha un naso importante, ha un naso importante, un po' come il mio, un po' come dice sempre mia nonna di me, che ha un naso importante. Anzi, facciamo una cosa, visto che moltissimi di voi sono davanti a un computer in questo momento e moltissimi di voi stanno facendo finta di lavorare e invece hanno Facebook probabilmente aperto, se avete voglia e se avete una webcam, scattatevi una foto in questo momento preciso, alle 16:10 di un mercoledì, se buonanotte, di un martedì qualunque, 22 di novembre 2011, ma anche se avete uno smartphone e avete una macchinina fotografica nel cellulare e volete caricarlo sul profilo Facebook del programma, il profilo è Matteo Caccia, io sono qui. Mi mandate la vostra foto e cerchiamo di capire se siete quello che sembrate o siete una roba diversa da quello che appare nella vostra foto. So che così è un po' contorto, lo so, tranquilli, è un po' contorto così. In realtà è molto più semplice quanto non sembri. Detto questo, il profilo del programma rimane quello, è Matteo Caccia, io sono qui. Vi scattate una foto in questo momento preciso e la inviate anche alla mail se volete. Voi siete qui, @radio24.it. A me è successo un anno fa, sono entrato da un pizzaiolo egiziano, perché ormai i pizzaioli a Milano sono per lo più egiziani, ed era un pizzaiolo che conoscevo perché era il pizzaiolo vicino a casa mia, ed era il figlio di Samir, che è il papà è pizzaiolo, e il figlio si chiama Alberto perché di fatto è nato in Italia. Sono entrato, l'ho salutato e lui mi ha detto: oh, non si saluta più? E io credevo intendesse in quel momento, e poi mi ha detto: ieri a scuola. Lì ho capito che non parlava di me, però ho detto: guarda, mi sa che tu non sei quello che dà i panini nell'atrio a scuola? gli ho detto di no, però evidentemente poi lui mi ha visto e mi ha detto che questo qui mi assomigliava moltissimo, e c'è sempre un attimo di strano in cui nel momento in cui qualcuno ti dice che c'è qualcuno che ti assomiglia, o che tu assomigli a qualcun altro, o che tu non assomigli esattamente a quello che pensi di assomigliare. 349 238 6666, ma soprattutto fatevi una foto in questo momento davanti al computer o dovunque voi siate con il cellulare e inviatela a Matteo Caccia, io sono qui, e vediamo un po' che faccia avete. Questa è la storia di Massimo invece, e questa soprattutto è la faccia di Massimo. Mentre mi avvio verso il capolinea vedo partire l'autobus. Corro alla fermata successiva e salgo al volo. Contento e senza fiato, mi siedo sul sedile in fondo. Mentre apro il mio libro con copertina gialla e vistosa intestazione nera recitante Irvin Welsh, mi ricordo di non avere il biglietto. E me ne faccio una ragione. Stavo andando a un corso di tecniche teatrali, sono sceso da casa e l'ho visto l'autobus correre al volo. A Roma è sempre un'esperienza, un esperimento sociologico prendere i mezzi pubblici. Ogni giorno può capitare una situazione diversa. A volte si cerca di scappare, ma a volte ritrovarsi su un mezzo dell'ATAC può far tornare indietro delle reminiscenze di quando si era più piccoli e si andava in giro per la città tutti insieme sugli autobus. Sarà stata quella scritta cubitale anglosassone ad ingallare il controllore ATAC, quello appena salito dalle porte posteriori, mentre altri due suoi colleghi entravano rispettivamente da quella centrale e da quella anteriore. Sarà perché non mi chiede subito il biglietto, che all'inizio spero sia la solita comitiva di autoferrotranvieri che ritorna al deposito dopo il turno di lavoro. E invece no, il ragazzetto romano in divisa ATAC e Ray-Ban d'ordinanza è proprio lì per controllare i biglietti ai passeggeri. Già lo immagino impugnare la penna e firmare un verbale. Comunque sia, i suoi vetri a specchio si rivolgono al controllo dell'obliteratrice, che stranamente funziona. Sì, questa volta l'obliteratrice funziona. Penso che sono fregato. Il librone che sto leggendo mi nasconde come la terra nasconde uno struzzo, ma è la scritta gigante dell'autore scozzese in copertina che mi aiuta. L'omino vestito ATAC e Ray-Ban mi guarda, apre bocca ma non parla, e io comincio a pensare che mi abbia scambiato per uno straniero. Poi lo sento che si rivolge a me in inglese. Hello? Penso che c'è qualcosa che non va, ma in un attimo mi ricordo dei miei capelli rossi irlandese e del libro in inglese. Quindi in un inglese stentato il controllore mi ripete ancora "Ticket please?". Io rimango in silenzio e lui "Ticket please?". L'occasione è chiaramente unica, il mio accento british ancora abbastanza oliato e la mia faccia tosta è impaziente di manifestarsi. Faccio la faccia più irlandese che ho e rispondo "Well, I ain't Italian, I didn't know the ticket wasn't available on the bus, sorry, so can I buy it now?". Lui capisce che gli chiedo di comprare il biglietto sull'autobus come in Inghilterra e scuote la testa. "No, no possible, no ticket on bus, passport please". Gli spiego nel mio inglese migliore che non ho con me né il passaporto né alcun documento, perché non li porto mai con me. Implacabilmente ligio al suo dovere, il tutore della legalità della municipalizzata mi dice "No passport, so come with me". Poi si gira visibilmente alterato verso gli altri due controllori e il romanesco dice "Poi siamo noi a fare l'incivili, guarda st'inglese che sta senza biglietto". Mi scuso per l'accento. Io nel frattempo ho quasi esaurito il mio aplomb inglese. Lui mi guarda, io lo guardo, ci guardiamo e poi decido di abbassare la maschera e gli confesso tutto. "Sentici, non so straniero, so de Roma, il biglietto non ce l'ho, il documento nemmeno, ma se mi porti in questura e raccontiamo sta storia, sai che zimbello diventi?". Andando in giro per altri paesi d'Europa spesso mi è capitato di essere scambiato per straniero, e per dimostrare di essere italiano ho dovuto mostrare la carta d'identità come ultimo metodo per verificare appunto la mia nazionalità. Quella volta sull'autobus ci ho provato, un po' per scherzo, un po' perché avevo paura della multa, e sono andato avanti fino al punto in cui ho creduto fosse il caso di dirlo, un po' per scappare, un po' perché l'imbarazzo si stava facendo veramente troppo grande. Le porte dell'autobus si aprono in quel momento, la sua bocca si spalanca ma riesce a pronunciare solo tre parole, in perfetto italiano. "Dai, scendi, va, sparisci". Mentre mi allontano, sulla mia faccia da irlandese compare un sorriso. Dopo anni di pubertà passati a subire prese in giro e offese, mi compiaccio che stavolta sia stato qualcun altro a dover sentirsi imbarazzato per il colore dei miei capelli. "Tell me now when I go home, the boys don't leave the girls alone, to pull my hair and stole my comb, that's all right till I go home. She's handsome, she's pretty, she's the belle of Dublin City, she's Carton 1, 2, 3, please won't you tell me who is she? Tell me now when I go home, the La nostra faccia spesso dice più di quanto pensiamo. Ecco, fate come vi dicevo prima. Se avete uno specchio sotto mano, se magari siete in auto, potete abbassare la letta parasole e aprire lo specchietto di cortesia. Se siete a casa e potete fare un salto in bagno, ma anche se siete al computer e potete accendere la webcam e guardarvi, provate a fissarvi per qualche secondo. Provate a farlo in modo diverso però da come lo fate appena svegli, eh? Non cercate solo i punti in cui c'è ancora della barba oppure qualche imperfezione da coprire con un po' di trucco. Lasciate stare quel brufolo, non guardate le rughe, guardatevi proprio la faccia. Osservate le pieghe che di solito non guardate, misurate l'altezza della fronte, la distanza che c'è tra un occhio e un altro. Il colore dei vostri occhi, guardate il colore dei vostri occhi, guardate il colore dei vostri capelli. Siete davvero sicuri di sapere bene che faccia avete? Anzi no, siete sicuri che la vostra faccia dica chi siete? Che racconti perfettamente quello che state vivendo, quello da cui venite o dove vorreste andare anche? Che alla fine quelle boiate tipo gli occhi sono lo specchio dell'anima, no? Quelle robe lì non ci crede nessuno, fortunatamente. Lo dice pure Amleto. Devo segnarmi che un uomo può sorridere ed essere un furfante. Scusate. Guardatevi bene la faccia. Non potrebbe essere quella di qualcun altro. Non potrebbe raccontare cose che non vi appartengono. E voi non l'avete mai usata per trarre in inganno qualcuno? Non avete mai approfittato di una vostra somiglianza per beffare qualcuno, per ingannarlo, per trarne beneficio, anche solo per gioco? Una decina d'anni fa ho assistito proprio a un episodio del genere. E insieme a me in realtà lo hanno fatto milioni di persone. Tutte le persone che erano davanti alla televisione a guardare una partita di calcio. La partita era Milan-Roma. Era il 2000. Ma si giocava allo stadio Meazza di San Siro. Insomma, io sono lì, mentre sto guardando la TV insieme a mio padre, vedo un mio amico, uno che di mestiere fa l'attore, che si aggira, sapete come fanno le guardie del corpo, in giro, in quel caso negli spogliatoi dello stadio, e fa cose tipo far cenno alle telecamere di spostarsi. E alle sue spalle c'è un tizio che è in cappotto e con un cappello, ha la barba e degli occhiali da sole, e ha l'aria di chi è lì perché è una persona molto importante. Io mi domando come ci sia finito il mio amico Michele, che fa l'attore, a fare la guardia del corpo. Poi però la partita inizia e non ci faccio più caso. Spesso però le telecamere vanno in tribuna e inquadrano questo tizio con la barba e gli occhiali da sole. E il telecronista a un certo punto sostiene che sto tizio è Nicolas Cage, che è a Milano per lavoro e si è voluto vedere la partita. Ora, quel tizio inquadrato non è Nicolas Cage, è evidente, e secondo me non gli assomiglia nemmeno lontanamente. La cosa strana che succede però è che dal momento in cui il telecronista lo dice che quello è Nicolas Cage, io comincio a crederci. Comincio a pensare di essere io in fallo, che probabilmente non mi ricordo bene la faccia di Nicolas Cage, che magari, che ne so, al cinema con il trucco o le luci sembra diversa da come realmente. Il giorno dopo chiamo Michele, il mio amico, lui mi racconta quello che poi è venuto fuori in maniera dichiarata. E la storia era che lui e alcuni amici attori che stavano provando uno spettacolo particolarmente noioso avevano pensato di vedersi quella partita sfruttando la lontana somiglianza di quell'attore con Nicolas Cage. Quindi avevano mandato un fax alla sede della società sportiva chiedendo biglietti e tutti c'erano cascati. Tutti. Dopo la partita addirittura erano stati invitati a scendere negli spogliatoi. I giocatori si erano fatti fotografare con questo ipotetico Nicolas Cage e uno di loro gli aveva anche regalato la maglia. Poi da lì quell'attore fece diventare questo modo di travestirsi e ingannare con la faccia un format vero e proprio, ne venne fuori anche un programma televisivo. Questo però sinceramente è meno interessante. Lo è molto di più il fatto che, un po' come è successo a Massimo, il protagonista della storia di oggi, se ti convinci di sembrare qualcosa o qualcuno che non sei, oh, non si capisce come, ma se ne convincono anche gli altri. Se cerchi di essere qualcosa che non è una cosa tua, se cerchi di raccontarla in modo convincente, se la giri in un modo che sembri tua, quella cosa un po' diventa tua. E chi ti sta vicino inizia a crederci pure lui. È una cosa strana, misteriosa, anche subdola. È una cosa a cui è meglio prestare attenzione perché può diventare pericolosa, però ogni tanto raccontare una storia diversa dalla propria, solo in parte, può essere una buona idea. Così, anche solo per guardarsi allo specchio e non vedere sempre la solita faccia. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know, I be the wind. sunset, light on your door to show that you're home. Caro Matteo, sono in autostrada e ho la netta sensazione che nelle macchine davanti a me molti si siano guardati negli specchietti. Comunque, quello che era nel mio dispecchietto non ero io. 349-238-6666. Allora, io ringrazio davvero quelli che hanno cominciato a scattarsi foto e a mandarle sia sul profilo del programma Matteo Caccia, che sono qui, sia alla mail del programma. Ecco, vi chiedo solo di fare attenzione se siete in macchina e vi scattate una foto col cellulare e la spedite, e magari ci scrivete anche un commento, così per non avervi sulla coscienza. Veniamo invece alla persona che ha fatto nascere tutto questo delirio di facce, se ci assomigliamo oppure no, che è Massimo. Pronto Massimo? Pronto Matteo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, come stai? Abbastanza bene, tu? Io... bene. Ci ho pensato su un secondo, ma bene. Senti, dimmi dove sei in questo momento, Massimo. In una stanza di un appartamento. Cioè, sei a casa o sei al lavoro? Sono a casa, sì, a casa. Senti, tu sei giornalista freelance, che significa che scrivi o parli per un po' dove capita o in particolar modo per qualcuno? Sì, una radio locale romana, un paio di portali web e qualche collaborazione con qualche testata. Come si chiama la radio romana? Radio Meridiano 12. Ti è partita subito la voce da jingle. Giustamente. Senti, quando succedeva questa cosa dello scambio per l'irlandese sul pullman? La primavera scorsa. Senti, ma e lui ti ha proprio lasciato andare con questa facilità? Ma è rimasto incredibilmente basito, è rimasto congelato quando mi sono rivolto a lui in italiano, non se lo aspettava proprio. Senti, questa roba però nasce, arriva da lontano in realtà, perché tu sin da bambino, che poi a Roma come, banalmente uno rosso di capelli come te viene chiamato? Prospero, che cammifero, infatti c'è anche il detto Prospero non struscia a pettera che ti fuoco, visto che... No, scusami, questa se me la ripeti te ne sono grato. Prospero non struscia a pettera che ti fuoco. Ma perché Prospero è il fiammifero? È il fiammifero con la testa rotta. Ah, no? Ok, sì, quindi, ok. Ah, ok. Senti, ma perché in famiglia c'è qualcuno che ha i capelli? Mio nonno. Ok, arriva da lì. E invece da bambino eri semplicemente il rosso. A Roma si dice roscio. A Roma si dice roscio, sì. Senti, invece dimmi, perché come al solito sono i dettagli che un po' mi incuriosiscono. Tu eri sull'autobus perché stavi andando a fare un corso di teatro. Stavo, sì, diciamo sì, tecniche di base teatrali. Cioè, tipo? Non so, respirazione, punto, insomma. Ma che ti servono per il tuo mestiere o perché... Diciamo entrambe le cose, sia per il mestiere, la conduzione radiofonica, e sia proprio per un controllo emotivo che è sempre ben insomma. Ok, vabbè, comunque buona. Per il lavoro, non è che vuoi fare l'attore, questo intendevo. No, assolutamente no, non c'è pericolo. Senti, quante volte ti capita di salire sull'autobus senza biglietto? Mai, assolutamente mai. A parte quella, immagino. A parte quella, ovviamente. Senti, altre volte in cui hai sfruttato questa roba dei capelli rossi? Ma è sfruttato in maniera così evidente, non me ne ricordo, però per esempio all'estero, magari io la mia esperienza è stata principalmente in Olanda, e insomma ci sono spesso delle comitive di italiane che si aggirano per le vie delle città, principalmente Amsterdam, facilmente riconoscibili, e quindi è interessante magari sentire i commenti in inglese degli stranieri sulle comitive italiane e sui comportamenti degli italiani che gli italiani assumono all'estero. Certo, perché per te è più facile mimetizzarsi. Senti, Massimo, dimmi qual è l'ultimo articolo che hai fatto, l'ultimo pezzo che hai scritto? L'ultimo pezzo che ho scritto è sull'Universale, si chiama Sansone muore, i filistei mai. Parliamo di politica? Parliamo, sì, di politica, un po' okay. Un deviro, ecco. Ok, senti Massimo, ti ringrazio moltissimo per la foto, il racconto e tutto il resto che ne è arrivato. Io ringrazio te per la lettura, che è splendida. In bocca al lupo, ciao, grazie Massimo. Ciao. Intanto scusatemi, tra tutte le foto che sono arrivate su Facebook c'è la foto di Stefano che è meravigliosa, ha i baffi e il pizzo, Stefano, ma non è quello l'importante, perché mi scrive: e io chi sembro? Guarda Stefano, sembri, ti giuro, uno che lavora qui a Radio 24. Assomiglia a... come si chiama? Non mi viene manco il nome. Davide, quello... Vabbè, ve lo dico dopo. Voi siete qui. qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato Massimo, in realtà i capelli rossi non si vedono tantissimo, perché è un po' in ombra. Si vede la faccia e si vedono gli occhi verdi. Però si vedono un po' le lentiggini, quindi quelle sono indicative. Però il pizzo è rosso, i capelli sono rossi, è giusto un accenno. E poi, come al solito, sono i dettagli alle spalle che sono le cose più interessanti, perché c'è una libreria e una televisione accesa con una che non so chi sia, ma potrebbe veramente essere Raffaella Carrà. E poi, niente, non ci credo mai quando chiedo una cosa e arrivano così, le risposte sono così tante, e mi viene veramente da ringraziarvi, oltre che da sorridere, perché... perché insomma non è facile farsi una foto e riuscire bene, lo so, è complicato, soprattutto se te la fai tu, giusto? E quindi, ecco, se dovessero dirmi come sono i tuoi ascoltatori, ecco, dalle foto che arrivano non sembrano proprio bellissimi, però sembrano molto simpatici e sicuramente molto disponibili, come ero. Allora, siete tutti in macchina. Siete tutti, ma ovviamente c'è dell'autoironia qui, certo. Infatti, come sono i tuoi ascoltatori? Sicuramente autoironici. Siete tutti in macchina. Vabbè, questa sai che novità, perché l'ascolto radiofonico è soprattutto automobilistico. Roberto c'ha una camicia bianca e guarda verso la strada, ma fa finta di niente. Riccardo ha scritto anche nella mail che ha mandato. Quindi ha mandato una foto, una mail, tutto guidando. Tutti mi dicono: io ti conosco, devo avere una faccia già vista. No, Riccardo, a me non pare che tu abbia faccia già vista. Michele, anche lui, siete tutti in macchina. Roberto, no, Roberto è in ufficio. Gianni sembra, come si chiama quello di, oh, mi venisse un nome mai nella vita, dai, quello di bravo, Patrizio Roversi. Quindi gli assomiglia, è vero che gli assomiglia Patrizio Roversi. Gianni sulla A1. E poi Davide, che ha gli auricolari, quindi immagino che stia ascoltando il programma con gli auricolari in macchina. Guglielmo, anche lui in automobile, lui sembra uscito da The Ring. Invece, sapete quando la bambina di The Ring guarda la televisione? E Marco invece fa come, guarda, questi sono i miei preferiti. Marco fa come se l'avesse fotografato qualcun altro, non come se avesse il braccio disteso a fotografarsi. E poi Roberto, vabbè, non posso leggervi, cioè lo farei, starei ora a parlarvi di tutti quanti, anche sul profilo Facebook. Francisca, o Francesca, Francisca si scrive sorridente, somiglia a mia nonna e sono contenta. Poi Alice dice: io assomiglia a mia sorella minore. Questo mi ha permesso di scoprire involontariamente con suo scorno alcune delle sue marachelle. Per esempio, il padre di una sua amica mi ha fermato dicendo: ti ho vista al mercato ieri mattina, non mi hai visto? Non fosse che il giorno prima mia sorella sarebbe dovuta essere a scuola. 349 238 6666. La cosa strana è che appunto le donne scrivono e i maschi mandano le foto. Forse perché i maschi chi se ne frega se vengo male in foto, più o meno, giusto? Roberto. Allora, Roberto ha caricato una foto e ha scritto sotto: eccomi. E ha proprio la faccia di: eccomi qua. E Roberto, non capisco dov'è. Sembra un laboratorio, probabilmente. Roberto, se sei all'ascolto, credo sia un laboratorio, perché mi sembra che dietro ci sia una cosa simile a un microscopio. E poi perché addosso. Roberto, hai addosso una cosa, una specie di tuta. È un camice. Sembra spero che sia un camice, perché se ti sei comprato un giubbotto così, Roberto, altro che la foto. Marta anche. Marta ha mandato una foto in cui è in automobile e ha scritto on the road. Giustamente qualcuno gli ha scritto: Guidi, fai le foto e fai pure i commenti. Quante mani hai? 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it. Volevo però, prima di perdermi in queste foto, che come al solito quando nascono così le cose è un delirio ritrovarsi, ecco, e quando abbiamo pensato a questa cosa delle facce, dei visi che possono sembrare molto diversi in momenti diversi e in foto diverse e in luoghi diversi, mi è venuto in mente un libro magnifico che ha scritto e che ha messo insieme, ho curato, Giacomo Papi. È un libro che è stato pubblicato da ISBN, che è la casa editrice, quella con la copertina bianca e le pagine colorate, di solito rosse, in quel caso sono blu. Il libro si chiama Accusare, storia del Novecento in 366 foto segnaletica. In sostanza Giacomo Papi ha preso, sapete le foto segnaletiche, quelle dei visi, i ritratti dei visi fatti nelle carceri, a partire dai primi del secolo, e ha messo insieme di tutti, delinquenti veri, ma anche no, anche persone che semplicemente ci sono capitate. E la sensazione è che chiunque di noi in una foto come quella sembra un delinquente, molto banalmente. Ci sono cantanti, attori, mafiosi, serial killer, terroristi, c'è Bill Gates quando era stato fermato perché guidava senza la patente. Poi c'è Frank Sinatra, che era stato arrestato per seduzione di donna sposata. Poi Malcolm X per furto, Martin Luther King per resistenza pubblica ufficiale. Insomma, è un bel libro e sono delle bellissime foto. Si chiama Accusare, l'autore è Giacomo Papi. E poi non c'entra coi visi, però non possiamo stare sempre sui visi, c'entra però con le descrizioni. E quando penso a una descrizione perfetta, quando poche righe e poche parole servono per descrivere qualcuno, mi viene in mente un pezzo di Moby Dick. È un uomo strano il capitano Ahab, dice qualcuno, ma è un brav'uomo. Vedrai che ti piacerà, non avere paura. È un uomo grande, non è religioso e pare un dio il capitano Ahab. Non parla molto, ma quando parla potete starlo ad ascoltare. Bada, sei avvertito. Ahab è fuori dal comune, Ahab è stato all'università e in mezzo ai cannibali. È abituato a cose meravigliose, più profonde del mare. Ahab ha piantato la lancia in nemici più forti e più straordinari delle balene. La sua lancia. La sua lancia è la più affilata, la più lunga e infallibile di tutta quest'isola. Non è il capitano Bildad, lui. E nemmeno il capitano Peleg. Lui è Ahab, ragazzo. E nell'antichità, Ahab, tu lo sai, era un re coronato. Sì, siamo belli su di didascalia oggi, direi. Perché dopo aver letto un pezzo di Moby Dick, mettiamo i Led Zeppelin. Questo si chiama proprio Moby Dick, questo pezzo. Visto che spesso lo chiedete, lo ripeto, non finirò mai di dirlo, tutti i pezzi che mandiamo in onda, i brani musicali che sceglie Tiziano, li trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, dove trovate anche la mappa con le facce di tutti quelli che partecipano. Andrea mi scrive: credo di avere la faccia da guida turistica. Ovunque vado, la gente mi chiede indicazioni su monumenti o palazzi. E poi Steo di Biella mi dice: con la maglietta rossa mi cambiano per il commesso della ferramenta, con quella verde del supermercato. Sempre. Stefano, o c'hai la faccia da commesso, oppure sei solo circondato da gente che cerca supermercati e ferramente. Silvia invece mi dice: mi hanno scambiato per una ragazza che cercavano a chi l'ha visto. Ostia, questa è brutta. Già che uno sparisce e magari non ha voglia di essere cercato, figurati uno che manco è sparito. Mi hanno scambiato per una ragazza che cercavano chi l'ha visto e ho dovuto far vedere la carta d'identità per dimostrare che non ero io. E poi mi dice però anche: mia mamma, quando avevo paura di affrontare qualcosa, mi diceva di recitare, facendo finta di essere un'altra. Non ho capito. Ah, ho capito. Ho capito. Vabbè, se qualcuno non ha capito come me, è che se non sei tu, probabilmente hai meno paura, giusto? Però non per tutto, più o meno. E poi, a proposito della foto di Roberto che ha il camice, qualcuno, Alberto, che forse è un odontotecnico o ne sa, scrive: è un odontotecnico. Ha scritto solo così sul profilo Facebook. Pare che sia arrivata un'altra donna, attenzione. Allora, Francesca, io sono qui con una bella selezione di formaggi e c'hai in mano un bicchiere di vino. Francesca, sono le 16.43, siamo al limite dell'alcolismo, eh. Se si beve qualcosa prima delle 6:30 del pomeriggio siamo ai limiti dell'alcolismo, però forse in un bar. Vabbè, questa non è che la discolpi, ecco, è comunque il limite dell'alcolismo. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile il programma di oggi, soprattutto quelli che hanno postato le loro foto. Anche Valentina mi ha dato una foto così detto: sono in letargo. E Francesca ha scritto: bella foto pensativa. Credo però Francesca è straniera, credo che sia spagnola o argentina. Continuate a caricare le vostre foto sul profilo Facebook, che non so perché mi fanno molto ridere, se avete voglia, se no anche no, e quelli sono problemi vostri più che miei. Grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Massimo e parlava di volti, per chi non l'avesse capito. Quella di domani invece è la storia di Francesco e parla di vincere le proprie paure. Inizio la salita, ma il dubbio diventa certezza. Le mani iniziano a sudare, il cuore mi batte all'impazzata. Mi fermo ad appena 3 metri di altezza, mi aggrappo fortissimo alle cime, mentre gli allievi mi superano da ogni parte. Ho le vertigini. Scendo e mi rimetto in fila sull'attenti, senza aver compiuto il mio giro. La paura del vuoto è più forte della vergogna di non aver superato la prova. Mi sento un misto tra Palla di Lardo in Full Metal Jacket e un bimbo che sale per la prima volta sullo scivolo.